Dunque, riprendiamo il capitolo 14, no? 15? 14. 14 è quello che abbiamo dato come titolo La notte, virgola, il dolore. Punto decisivo che abbiamo letto una volta e mezzo, se vuoi dire ieri, no? Per il piacere poi di leggerlo e con il non piacere di non avere il tempo di leggerlo in originale, insomma, ma vediamo di recuperare qualcosa. Ed è insomma il cominciamento della sofferenza da abbandono. Dove andavo allora a Françoise, le 6, finalmente, grazie a Dio, stava per scomparire quel pesante calore di cui un tempo mi lamentavo con Albertine e che amavamo tanto. Chiunque abbia sofferto di questa pena centrale dell'essere umano, che è la pena dell'abbandono, di tutte le pene per la verità, sa che l'orologio è molto compagno delle nostre pene, no? Cioè c'è chi soffre di più alla sera, alla notte, al risveglio, al mattino. Ma un'ora perlomeno a ognuno il suo, ma un'ora che sento particolarmente in affinità con Proust, che sento particolarmente terribile, sono le 6 del pomeriggio. È l'ora in cui chi soffre non sa più che fare. Siamo d'estate, 6 del pomeriggio, Parigi. A Parigi, d'estate, alle 6 del pomeriggio, fa molto caldo, d'estate, fa molto molto caldo. Ma lui è chiuso, tappato in casa, noi dobbiamo immaginarci la scena, con le persiane chiuse, al buio. Questa scena di lui con le persiane chiuse al buio è un ricalca nella realtà un'altra scena, non documentata, non di quando Alfred Agostinelli, cioè il suo amante, se n'è andato, ma di quando è morta la madre. Allora i biografi dicono che rimase più o meno 2 o 3 giorni al buio completamente in casa. Alle 6 del pomeriggio la giornata si è arroventata del caldo del pomeriggio, si è arroventata. La sera lontana, perché tutti noi, dolori o non dolori, quando fa caldo durante la giornata d'estate, tutti aneliamo al fresco della sera. Figuratevi un poco chi è in questa specie di inferno interiore che è la pena per la separazione. Guardate com'è scritta la frase: domandavo a Françoise l'ora che poteva essere, punto. Le 6, prima che arrivi la notte. E dice che grazie a Dio stava per scomparire, ma se ne voleva ancora, quel pesante calore. E qui dice una cosa curiosa, strana, di cui mi lagnavo con Albertine e che tuttavia amavamo. Perché quando fa molto caldo d'estate tutti siamo portati a lagnarci del caldo. No, il meteo, come si dice, domina un po' la nostra vita. D'inverno per il freddo, ecco, in questa stagione, diciamo così, ci lascia quieti, ma quando ci sono d'estate, 40 gradi, allora la sera, la brezzolina, una volta Roma era famosa, poi con la speculazione edilizia le cose sono mutate, ma una volta veniva una brezzolina dai castelli giù a Roma e era quello che si chiamava ponentino una volta. E quindi da una parte si lagnava con Albertine del caldo, ma dall'altra parte gli piaceva, perché vedete, quando uno ama qualcuno e questo qualcuno gli sta vicino, gli piace tutto. Gli piace la neve, la pioggia, il caldo, il freddo, la mattina, la sera, la notte. Ma dice, che cosa ci guadagniamo al fatto che venisse la sera? Poi veniva la freschezza della sera, anche a Parigi. La freschezza della sera si levava, era tramonto, e lui ha questa immagine, perché il dolore presente si nutre sempre di immagini che non riguardano esclusivamente il presente, ma riguardano altrove. E ha questa immagine di lui con Albertine, sempre insieme. Ve l'ho detto che l'insieme è questa parola che Baudelaire ha messo in evidenza, ma qui la troviamo una parola universale. Tutti gli amanti vogliono stare insieme, il bimbo vuole stare insieme alla mamma, eccetera. E qual è l'immagine che vede nella memoria? Vede un ritorno a casa e un punto luminoso, un ultimo villaggio che però non sarebbero riusciti a raggiungere perché non c'era tempo e dovevano fermarsi a Valbec. Che significa questo punto luminoso nella notte? Lui, Albertine, stanno tornando a casa a Valbec. C'è un punto lontano, è come una sensazione di respiro. Questa è una delle caratteristiche che noi abbiamo nelle condizioni di felicità amorosa, quella di respirare. Direi l'effetto opposto produce l'infelicità, che è quella invece di sentirsi soffocare. Allora, questo punto luminoso che è un villaggio che non riusciranno a raggiungere perché è troppo tardi, loro dovranno fermarsi a Baalbek. Erano insieme allora, in questa memoria, erano insieme. Insieme allora, dice Proust, adesso che bisognava fermarsi d'un colpo, davanti a questo stesso abisso, lei era. Cioè, questo non è più possibile. Allora, vedete un segnettino, uno, un numeretto, uno, vicino a questo l'été mort, perché vedrete che adesso torna, perché la semplicità della constatazione dolorosa è in realtà diventa una specie di nevralgia. Io credo che tutti sappiate in modo diretto o indiretto che cos'è una nevralgia. Quando avete una nevralgia, un dente per intenderci, insomma, il dolore può darvi una piccola tregua, ma poi ritorna. Le nevralgie sono questi dolori pulsanti, intermittenti, no? E qui il dolore viene dalla constatazione che lei era morta. Il fatto che se lo ripeta, come vedremo molte volte, ha un suo significato preciso, e perché quando capita una disgrazia uno non ci crede, e questo ve lo dicevo già ieri, ma uno non ci crede, quindi deve persuadersi di quello che è capitato, deve persuadersi, e quindi il ritorno a casa la sera di notte guardando questo punto luminoso distante e inaccessibile è legato alla consapevolezza che adesso Albertine è impossibile perché ormai è morta. E a questo punto non basta più chiudere gli scuri, le persiane, non bastava più. Chiudere le persiane, cercavo di tappare gli occhi e le orecchie della mia memoria per non rivedere quella striscia d'arancio del tramonto. Specialmente già in questa stagione, preestiva, direi esageratamente preestiva, se voi volete riposare il pomeriggio, a quest'ora mettiamo, e chiudete le tapparelle della vostra stanza e vi rimangono delle righe di luce. Queste righe di luce danno fastidio, E poi però è un'angoscia quando queste righe di luce diventano meno fastidiose, perché se a quest'ora chiudete le tapparelle sono strisce arancioni, dopo un po' diventa neutro il colore, poi diventa il buio della notte. E che cosa è peggio? La striscia arancione o il buio della notte? Lui vive al buio. Vivere al buio per il narratore in questa condizione vuol dire una cosa molto semplice: non voglio vedere. Non voglio vedere, non voglio sapere. Non voglio vedere, non voglio sapere. Non voglio vedere, non voglio sapere. Chiude la persiana, non bastava più. Cercavo di tappare gli occhi e le orecchie della mia memoria per non rivedere quella striscia d'arancio del tramonto, per non sentire quegli invisibili uccelli che si rispondevano da un albero all'altro, da ogni parte di me, che abbracciava, che baciava. Ambassé è stato tradotto, si può tradurre in due modi, ma qui baciava il più pregnante, perché insomma due che si amano si baciano, insomma. Se ci pensate, sono piccoli fatti della vita quotidiana, ma il bacio è un'invenzione straordinaria, perché noi sappiamo molto bene che il contatto amoroso avviene attraverso il pene e la vagina, ma tirarsi giù le gonne, i pantaloni, tutte queste cose, e poi è impegnativo, magari uno è stanco. Invece pensate che soluzione meravigliosa è il bacio. Il bacio è una soluzione meravigliosa. C'è un'altra bella soluzione, meno compromettente, a cui io personalmente credo molto, ne parla anche Proust, altre cose, ed è la stretta di mano. La stretta di mano naturalmente è meno impegnativa, uno non è che può baciare, ma la stretta di mano ti può dare esattamente l'idea di quello che tu senti per l'altra persona. Il traduttore Raboni, che ha tradotto molto bene la ricerca, traduce qui baciava. Ha ragione. E allora lui adesso ha un problema, che vuole evitare altre sensazioni. Ma perché vuole evitare il ricordo, scusate, di certe sensazioni? Perché questi ricordi sono troppo duri. Uno è quello è questo che vuole evitare. Io cercavo di evitare quelle sensazioni. Sentite che strana sensazione, che danno l'umidità delle foglie nella sera, il saliscendi delle strade a dorso d'asino. Ma già quelle sensazioni mi avevano riafferrato, portato abbastanza lontano dal momento attuale, affinché tutta la rincorsa, tutto lo slancio necessario per colpirmi di nuovo l'idea che Albertina era morta. Quando noi abbiamo una sensazione che ci ricordi un tempo felice, Dante, non c'è maggior dolore. C'è maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E quindi, quando lui sente questa sensazione di erba, di fresco, è come se tutto il passato gli corresse incontro per colpirlo con maggiore forza. Voi sapete bene cosa vuol dire prendere la rincorsa, no? Uno prende la rincorsa quando vuole, per esempio, una porta che non si apre. Prendo la rincorsa per colpire con il gomito, per colpire con il corpo, no? E quindi questi ricordi è come se prendessero la rincorsa per colpirti meglio. Questa è la seconda volta, terza volta che Albertine è indicata come morta, e è morte, questa è la terza indicazione. E pensa alle cose con Albertine: entrare in una foresta, entrare in un bosco. Dice: non entrerò mai più in un bosco. Non è possibile. Non entrerò mai più in un bosco, perché ero entrato tante volte in un bosco con non ce la faccio più, non entrerò mai più in boschi in vita mia. Naturalmente, con questa logica, la vita può diventare straordinariamente chiusa, stretta. Prendevo con Albertini il cappuccino, non prenderò mai più cappuccino. Guardavo con Albertine dei telefilm alla televisione, una serie che mi faceva ridere, mi distendeva. Non vedevo mai più con Albertine dei telefilm alla televisione. Passavo per quella strada, non passerò mai più per quella strada. Cosa faccio? Perché dice, non è solo questione di boschi. Quante volte avevo cercato invece di fare delle pianure, quindi non è più solo questione di boschi in cui non entrerà più. Quante volte avevo attraversato per andare a cercare Bertin, quante volte avevo ripreso nel ritorno con lei la grande pianura di Creekville. A volte, e già perché ci sono poi tempi diversi, con un tempo brumoso, in cui l'inondazione della nebbia, questa è una meraviglia questo ritratto, l'inondazione della nebbia in un campo. Noi siamo di Roma, io non sono di origine romana, ma sapete che al nord, ma lo sapete molto bene, la nebbia è padrona d'inverno. Io so esattamente cosa vuol dire, forse anche voi lo sapete. Una pianura inondata dalla nebbia, la grande pianura di Creekville, a volte con tempo brumoso, dove l'inondazione della nebbia, quando tu sei nella nebbia, non so se vi siete mai, vi è mai capitato di stare nella nebbia, non sapete dove siete. Una volta dalle mie parti di origine in Piemonte ero con un amico in macchina, erano le 7 di sera vicino ad Asti, amico carissimo, lui guidava la macchina. Mi chiese di scendere dalla macchina, andavo lungo la strada, andavo a passo d'uomo, lui mi seguiva perché non si vedeva la strada. Uno sente delle voci, magari, sente delle voci attutite dalla nebbia, ma non vede più nulla, hai l'impressione di stare in un altro mondo con la nebbia. A volte c'era un tempo brumoso, nebbioso, a volte sere limpide, perché il guaio è quello, bisognerebbe eliminare tutti i climi possibili dai luoghi in cui siamo andati con Albertino. Ma come cavolo è possibile? Perché io posso eliminare la nebbia, vabbè, ma anche con il cielo limpido andavo con Albertino, e come faccio a eliminare il cielo limpido? Le sere limpide, sentite, dove il chiaro di luna smaterializzando la terra, e già, perché nel chiaro di luna la terra, paesaggio intorno, per quanto umile sia, appare non più segnato dai suoi contorni, appare un po' magico, che lo facevano apparire la sera limpida di luna, il paesaggio, a due passi celeste. Guardate questa formulazione. A due passi da dove ci trovavamo, chiaro di luna, sonata numero 27 di Beethoven, a due passi sembrava celeste, ci sembrava di essere in cielo, e lì in questa pianura non posso più riandare, quindi non solo nei boschi, ma nelle pianure, quando c'è la nebbia, quando ci sono le sere limpide che trasmutano il mondo. Françoise, l'unica occupante della casa. Che ne pensava della morte di Albertine? Qui, come in una sinfonia, c'è un tempo diverso. Se il tempo per ora seguito è un tempo, è un adagio funebre, il tempo adesso diventa una sorta di amaro, cinico allegretto. A Françoise non solo non importa nulla di Albertine, ma aveva odiato Albertine. Le donne possono odiarsi. Due donne in una casa possono odiarsi spaventevolmente. Quali sono le due donne in questione? Una è Françoise, voi dite, ma come, una governante, una cameriera? Eh sì, ma lei sentiva che Albertine poteva essere una sorta di padroncina. Poi c'è un altro fatto. Secondo la mentalità bigotta di Françoise, di vecchia contadina, non era mica una cosa bella che una ragazza di età indefinibile, ma certamente sotto i 20 anni, stesse con un giovanotto più grande in casa da soli. Non era mica conveniente. Non so adesso come verrebbe giudicata la cosa, ma vi posso dire che già quando ero giovane io, per esempio, non era affatto conveniente. I ragazzi e le ragazze stavano debitamente distanti. Io mi ricordo che quando feci la prima vacanza al mare con la mia fidanzata, che poi divenne mia moglie, la facemmo loro, noi due, la mamma e poi c'era anche la nonna, quindi loro tre stavano insieme in una bella stanza e io in un'altra. E non era un caso particolarmente solitario, i rapporti fra i sessi diversi erano questi. Poi c'è qualcosa di più. Non solo Françoise si sente una sorta di tutrice dell'ordinamento morale familiare, ma una sorta di invidia uterina che viene sempre fra le donne, perché Françoise non si sa quanti anni abbia, nessuno sa quanti anni ha, nessuno. Ma non v'è dubbio che Albertina è una ragazza. E Françoise è una donna che ha una certa età. Le donne che hanno una certa età hanno un corpo più brutto. E non abbiamo nessun motivo per credere che Françoise fosse di particolare avvenenza. Una donna più brutta odia una donna più bella. Se poi è giovane, non ne parliamo. Quindi, insomma, c'erano vari motivi per i quali Françoise detestava Albertine. E il fatto che fosse andata via, si fosse levata dai piedi, era una gran cosa. Però Françoise aveva anche un codice d'onore. Questo codice d'onore consisteva nel fatto che lei è una serva. La serva deve proteggere la felicità dei padroni. Leggi non scritte del suo antico codice e la sua tradizione di contadina medievale che piange come nelle chanson de geste erano più antiche dell'odio per Albertine che andiamo un po' più basso erano più antiche peggio cos'è? Erano più antiche dell'odio per Albertine e per Eulalie. Voi chiedete chi è Eulalie, e Eulalie è un'altra donna di servizio. Il concetto che Proust sviluppa è molto divertente anche. Le donne si odiano, quindi una governante odia l'altra, perché l'altra può sembrare di essere più brava, più amata. Allora lei odiava sia Albertine che Eulalie, in modo diverso. Però è una serva, quindi deve proteggere la felicità dei padroni. Così uno di quei pomeriggi, siccome io non nascondevo abbastanza rapidamente la mia sofferenza, ella scorse le mie lacrime, servita dal suo istinto di ex contadinella che un tempo le faceva catturare, far soffrire gli animali e provare gioia nello strangolare i polli o far cuocere vivi gli astici. E quando ero malato, provava gioia a osservare come le ferite che avrebbe inflitto a una civetta, la mia cattiva cera, che annunciava poi con un tono funebre e con un presagio di disgrazia. Le contadine sono contadine. Le contadine, strozzano i polli. Io credo che nessuno di voi, per motivi di età, abbia mai strozzato un pollo. Non so se l'avete mai visto strozzare un pollo, io invece li ho visti. Una cosa spaventosa. Il modo in cui le mani torcono il collo rapidamente lo spezzano. Oh, in questo momento che stiamo parlando, quanti polli strozzati ci saranno? Questo suscitava pietà in Françoise? No, era il suo lavoro. Prendere i gamberi o gli astici, buttarli vivi, perché io non me ne intendo di queste cose, insomma, pare che si buttino vivi nell'acqua bollente, gli astici. Buttarli vivi era per lei del tutto normale. La crudeltà è un fatto storico. Quando io ero bambino e andavo a pescare con mio fratello maggiore, io, essendo piccolo, avevo l'incarico di uccidere le cavallette per farne delle esche. Strappavo le gambe alle cavallette. Ma cose folli. Eppure non era senz'altro sentito da me come qualcosa di folle. C'è in queste parole di Proust che riguardano Françoise una sorta di disprezzo per la mancanza di sensibilità, questa ex contadina che odia Albertine, odia Eulalie, però vuol vigilare sulla famiglia. Ed ecco, peraltro, crudele, al punto tale da fare delle cose che ripugnerebbero questa ex contadina e guarda. Quando lui, per esempio, lui, il narratore, ha una cattiva cera, lo vede, sapete che i contadini, le persone semplici, plebee, vivono di presagi. Il mondo delle persone semplici è fatto di proverbi e di presagi, che in qualche modo rudemente aiutano la loro percezione della realtà, in tutti i sensi. Sono infiniti questi proverbi. Rosso di sera bel tempo si spera. Il diavolo non è così brutto come lo si suppone, però all'opposto il peggio non è mai morto. E in questo coacervo di cultura popolare rozza c'è il fatto che la salute del padrone è un bene importante. Perché? Perché sì, perché i padroni sono importanti. Ma il suo formulario di Combrei, cioè del paese, non gli permetteva di prendere alla leggera le lacrime, il dolore, cose che giudicava funeste come togliersi la maglietta o mangiare controvoglia. Vede che il padrone piange. Ma piangere non va bene. Non va bene piangere. Non è giusto piangere. Non è giusto soprattutto continuare a piangere. Su questo la saggezza popolare è irremovibile. Si può piangere una persona morta, ma c'è il suo tempo. È stato inventato il lutto che si portava, lo sapete, nei casi più gravi per un anno, ma dopo un anno basta. Questa durezza del rapporto con la vita sentimentale è quella, senza dubbio, contro cui si scaglia, che si scaglia Proust più volte. Allora queste lacrime del padrone sono assolutamente fuori luogo, esattamente come fuori luogo altre cose, come il mangiare contro voglia. Forse l'avrete sentito anche nelle vostre famiglie, no? Papà e mamma, non ti piace questo? A tutti i bambini non piace mangiare in certe circostanze, tutti, indistintamente. Non mangiarlo contro voglia, non mangiarlo che ti fa male, se è contro voglia ti fa male. Oppure toglierti la maglietta, la celebre maglietta. No, nessuna ragazza di voi porta la maglietta. Una volta l'abbigliamento femminile si componeva di sottogonna, c'era la gonna, la sottoveste, spesso con pizzi, le mutandine. Adesso la sottoveste non esiste più da 30 anni. E le magliette, ma non ne parliamo nemmeno. Le ragazze che sono più così, insomma, fiorenti, si tolgono il reggiseno, anzi molto compiaciute del fatto che possono stare. È un segno di libertà, in fondo, è un segno di libertà. Ma togliersi la maglietta è pericoloso. Credo che maschi e femmine qui presenti abbiano sentito: se fa freddo, stai attento a non prendere freddo. Tra l'altro non consiglio niente affatto insensati, perché sai, c'è chi non ha mai portato la maglietta, ma chi l'ha portata poi magari se la toglie in questa stagione, per esempio, perché gli sembra che faccia caldo. Ma sentite su quale piano sono poste, è posta la difesa del narratore da parte di Françoise. Non deve piangere perché gli fa male, così come non deve togliersi la maglietta, così come non bisogna mangiare di controvoglia. È come se il mondo spirituale non esistesse, fosse appiattito sul mondo materiale. Quindi il dolore d'amoroso viene paragonato a un raffreddore, possiamo dire, a una bronchite, no? Non toglierti la maglietta che ti viene la bronchite, non piangere troppo. E a questo punto quanti consigli si danno alle persone che sono state abbandonate? I più volgari, i più crudi, i più intollerabili, chiodo scaccia chiodo, trovi un'altra persona. E tutto questo, l'amato che è stato abbandonato, lo disgusta, perché gli sembra di essere ancora più solo di fronte all'indifferenza oppure alla partecipazione simulata. Poverino, poverino quello che soffri. E a un certo momento Françoise capisce che non può intervenire su quest'uomo che soffre, e allora si riesce con una frase strepitosa, dantesca nella sua stupidità e ferocia. Dice: doveva capitare, come la grandine che ha distrutto un raccolto, come una malattia che è arrivata, doveva capitare. Ma con la tradizionale abitudine di far cadere la colpa sulle donne, dice: la poverina, cioè Albertine, non ha saputo capire la fortuna. Ad Albertine era capitato un bel colpo, il narratore straricco, questi sono i punti. Il narratore intelligente, fine, colto. Lei, una persona a dire umile, è poco. Non ha saputo conoscere la fortuna sua, Albertina. Ma in questa frase c'è proprio il disprezzo della donna per altre donne, perché la consapevolezza dell'orgoglio femminile, per così dire, è infinitamente più tarda. Se pensate che le donne in Italia votano dal 1946, insomma, no? Quindi non ha saputo vedere, pensate se a parti inverse sarebbe stato detto: l'uomo non ha saputo riconoscere la sua fortuna, mai, assolutamente. E devo dire, io che non mi sono mai specificamente occupato, né sostengo, anche per le sue forme isteriche, ma insomma poi negli anni si cambiano tante cose, la causa femminista, queste sono minuscole e terribili prove. Cioè, ma perché questa governante deve prenderselo con un'altra donna? Le prime nemiche delle donne sono le donne stesse. E qui naturalmente nulla mi può impedire quantomeno di rileggermi per la terza volta, quantomeno in francese a questo punto, le prime righe. Le prime righe che bisognerebbe leggere in ginocchio, come il beato angelico dipingeva le sue Madonne in ginocchio, perché sono grandi come il quinto dell'inferno nella sua parte finale, come il monologo di Amleto, insomma. E quindi ve lo leggo in francese, eh? Que le jour est lent à mourir par ce soir démesuré de l'été. Un pâle fantôme de la maison d'en face continuait indéfiniment à quareller sur le ciel sa blancheur persistante. Enfin, il faisait nuit dans l'appartement. Je me cognais au meuble de l'antichambre. Mais, dans la porte de l'escalier, au milieu du noir que je croyais total, la partie vitrée était translucide et bleue, d'un bleu de fleurs, d'un bleu d'ailes d'insectes, d'un bleu qui me semblait beau si je n'avais senti qu'il était un dernier reflet, coupant comme un acier, un coup suprême qui dans sa cruauté infatigable me portait encore le jour. La sera non arriva più, perché quando uno sta male vuole la sera per dormire, la notte per dormire, l'ora in cui prende il sonnifero, perché ha fatto dei calcoli con se stesso. Prima può prendere un tranquillante che lo prepari, per così dire, al sonnifero che gli darà il sonno, cioè gli darà il colpo in testa, e vuole arrivare in una condizione in cui si senta debitamente spossato. Come il giorno è lento a morire in quelle smisurate sere d'estate. Vedete, jour può anche essere tradotto come luce. Non so, è talmente bello dire giorno che si potrebbe fare un'eccezione, tradurre proprio giorno. Come il giorno muore lentamente. Perché alle 7 è chiaro. Che cazzo! Alle 7 è chiaro, per Dio, alle 7 è chiaro, alle 8 è chiaro, alle 9 è chiaro, ma quando finirà? Ma quando finirà? A un certo momento finisce. Un pallido fantasma della casa di fronte continuava ad acquarellare sul cielo la sua bianchezza persistente. Quindi c'è questo bianco della casa di fronte, Parigi. Estate, caldo, solitudine, abbandono, e finalmente arriva la notte. Finalmente faceva notte nell'appartamento. E allora, come nel buio, le persiane erano buie, erano chiuse, vi ricordate, lui si muove a tastoni e sbatte contro i mobili. Non ha voluto né accendere le luci né nulla, quindi urta contro i mobili dell'anticamera, finché vede nella porta della scala, in mezzo al nero che credeva totale, c'era, come in molte porte sulle scale, per dare luce all'interno, c'era un vetro smerigliato. E quindi dal vetro smerigliato, in questo buio totale, penetra la luce della notte. Penetra la luce della notte, in mezzo al nero che credevo totale, la parte vetrata era traslucida e blu, d'un blu, e a questo punto c'è una specie di italiana di blu. Blu, guardate come lo ripeto, di un blu di fiore, di un blu d'ala d'insetto, di un blu che mi sarebbe sembrato bello, se però non avessi sentito che era un ultimo riflesso, tagliente come un acciaio, un colpo supremo che nella sua crudeltà infaticabile mi portava ancora il giorno, cioè quel blu che vede, che è il blu della notte, però è quanto rimane della giornata, di una giornata terribile, quindi questo blu rimane là in alto, rimane là in alto ad avvertirlo che il giorno non solo è ancora presente, ma fra qualche ora si ripresenterà completamente.